Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Il viaggio di Padre Pio da San Giovanni Rotondo. Nelle prossime ore la partenza è in direzione Roma, un'operazione che ha richiesto misure di sicurezza eccezionali, scorta di polizia rafforzata durante il viaggio e no fly zone sui cieli del Gargano, doppia teca a protezione della reliquia accomodata su materassi ammortizzanti per limitarne le sollecitazioni. È una Roma blindata quella che si prepara ad accogliere le spoglie di Padre Pio, che saranno esposte fino all'11 febbraio insieme a quelle di San Leopoldo da Padova. Le misure saranno uguali a quelle assicurate a capi di Stato di alto rango, precisano i vertici della polizia, in azione unità cinofile, squadre antiterrorismo. Le reliquie di San Pio da Pietrelcina saranno esposte a Roma a partire dal pomeriggio nella Basilica di San Lorenzo fuori le mura, accanto al cimitero del Verano. Poi sarà spostato in centro nella chiesa di San Salvatore in Lauro e da qui venerdì in processione a San Pietro. Faccio subito una premessa. Oggi parlerò di Padre Pio. In sottofondo sentite Teleradio Padre Pio che sta trasmettendo il passaggio, il viaggio di Padre Pio da San Giovanni Rotondo a San Lorenzo fuori le mura. Non è la trasmissione che dovrebbe fare Massimo Giletti e Bruno Vespa, ve lo dico subito. Cercherò per quanto possibile di trattenere quello che mi verrebbe per il mio spirito inquieto da dire e sarà una trasmissione molto rispettosa del sentimento popolare. Certo è che trovo sorprendente e anche interessante come osservatore della contemporaneità questa sorta di mix fra alta tecnologia, il materassino ammortizzante, la maschera in silicone, è una reliquia tecnicizzata che però in questo momento sta arrivando a Roma come nei momenti più fulgidi in cui la fede popolare aveva il consenso unanime accadeva. Roma sta aspettando la salma di un uomo che è attraversato comunque dalla grazia. Per chi ha il dono della fede, quello è un corpo attraversato dalla grazia. Un corpo attraversato dalla grazia sta arrivando a Roma. Roma ha preparato una scorta di 800 uomini, droni, elicotteri, tutti, come se fosse quasi vivente, perché uno dice 800 uomini di scorta per cosa? Per un cadavere? No, è una cosa diversa, è una cosa molto difficile da comprendere e da articolare su una mentalità che ama la razionalità. Però questo sta accadendo, questo sicuramente creerà un'impressione, creerà un dibattito, questo sicuramente ispirerà comunque dei pensieri, quello che voglio fare questa mattina. In studio Ignazio Ingrao, buongiorno. Buongiorno. Ignazio Ingrao è un amico e un collega di Panorama, vaticanista di Panorama, ha scritto un libro con un tempismo fantastico che è uscito in libreria ieri sera, lo trovate, Il segno di Padre Pio, da santo perseguitato a simbolo della Chiesa della Misericordia di Papa Francesco. Questo è un libro che parla non tanto della gloria sugli altari di Padre Pio, ma parla di quando la Chiesa, Padre Pio, lo bastonava spesso e volentieri. Poi parla anche, diciamo, di quello che è il rapporto, e questa è l'attualità, fra l'attuale Papa e Padre Pio. Perché Padre Pio è a Roma oggi? Qual è il senso? In una sintesi, Ignazio. Perché Papa Francesco ha voluto, proprio con un gesto storico, che lasciasse per la prima volta la salma San Giovanni Rotondo, venisse nella Basilica di San Pietro come modello di come il Papa vuole che sia un frate, un religioso, cioè dedicato alla confessione, perché è esempio di quella misericordia a cui è dedicato il Giubileo, e cioè appunto sperimentare l'amore di Dio che converte. È anche un brand molto potente comunque per il Giubileo, Padre Pio. Senza dubbio, infatti è interessante capire e interrogarsi su come da una parte la religiosità popolare profonda, quasi folcloristica, che accompagna Padre Pio si coniuga con questo Papa che però appare anche così aperto di opinioni e di vedere sul mondo, sull'attualità, sulle sfide anche della società di oggi. E lo stesso interrogarsi su come rimane profonda la devozione al frate di Pietrelcina nella nostra epoca così smagata e così aperta alla tecnologia, alla modernità. Allora, 800 24 00 24, il tema è questo. Abbiamo ancora la coda lunga delle critiche che vengono fatte anche nell'ambito della stessa Chiesa, di molti vescovi al Papa per il Family Day, e lui butta sul piatto il lasso Padre Pio. Vedremo che succederà, a tra poco. Melog. Cronache meridiane di rivisto stamattina i devoti del santo 40 anni dopo la sua morte. Una sottile maschera di silicone ne protegge il volto, dove però colpisce la bella barba bianca che è proprio quella di Padre Pio. Disteso in una teca di cristallo, il saio marrone cucito dalle cappuccine del monastero di clausura di San Giovanni Rotondo, ma soprattutto il volto, con la sua folta barba bianca ancora incorrotta dopo 40 anni. È la maschera di silicone che ricopre il volto di San Pio ad attirare subito lo sguardo dei pellegrini arrivati in massa a San Giovanni Rotondo per venerarne le spoglie. Una maschera che permette di ritrovare ogni particolare del volto del frate da Pietrelcina e insieme ne addolcisce l'impatto con la morte. 800 24 00 24. Avete memoria di Padre Pio, che ha vissuto come me i decenni precedenti? Devo dirvi che negli anni 60, 70, 80 era fortissima l'idea di andare comunque da Padre Pio. La gente faceva ore di fila per confessarsi da Padre Pio. Era una sorta di lascia passare per una pace dell'anima. E si parlava molto di Padre Pio. Poi se ne è parlato nel momento in cui Padre Pio è stato proclamato santo. In quanto santo il suo corpo è rimasto incorrotto perché attraversato dalla grazia. Evidentemente anche qui c'è un elemento che si unisce a un elemento molto moderno. Il segno della sua incorruttibilità è sancito dal silicone. Il silicone è l'elemento che mantiene in una illusione di eternità un'infinità di esseri umani oggi. Per Padre Pio comunque è il segno che comunque il volto è incorrotto. Ecco, Ignazio Ingrao, a me colpisce molto questa cosa questo. Della maschera di silicone, devo dire, è un elemento, averlo soltanto detto, la maggior parte dei santi nelle teche di cristallo in tutte le chiese romane sono ricoperti di cera, e io ho pensato per anni fossero veramente incorrotti, è una statua. Qui l'hanno detto, in effetti il volto non era poi così, perché anche il miracolo, cioè naturalmente fai i conti con la materia organica, hanno messo una maschera di silicone. Il silicone è l'elemento che oggi mantiene in eternità la maggior parte dei personaggi baciati dalla gloria terrena. Ma qual è poi la ragione di tutto questo? La ragione è che in qualche modo siamo come di fronte a un prolungato reality, perché le telecamere di Teleradio Padre Pio inquadrano giorno e notte la teca di cristallo dove è conservato, e fa oltretutto un ascolto e uno share impressionante. C'è uno dei format televisivi che più funzionano è mettere una telecamera fissa sulla teca di Padre Pio. Esatto, e oggi appunto come in un prolungato reality si segue minuto per minuto il viaggio delle spoglie fino a Roma, fino alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura, e poi via via questo cammino appunto come in una processione medievale a San Salvatore in Lauro, e poi alla Basilica di San Pietro, e poi il ritorno a Pietrelcina e infine a San Giovanni Rotondo. Insomma, noi seguiamo e le telecamere seguono, ecco, come se fosse appunto un personaggio. No, come se fosse vivo, perché io dico 800 uomini di scorta come per salvare la vita a un capo di Stato, in realtà è morto. E lui l'aveva detto, però: io farò molto più rumore da morto che da vivo, e già da vivo ne aveva fatto di rumore. Ed è stato effettivamente così, perché continua ad essere un argomento di discussione, proprio perché tiene insieme tanti opposti, come è stato da vivo, il suo carattere burbero, anche in qualche modo scostante, e tuttavia però circondato dall'affetto di tantissime persone. Sei vaticanista da tanti anni, quindi ne maneggi di storie di santi, di preti, di chiesa da parecchio tempo. Qual è stata la sorpresa nel cercare le fonti per scrivere questo libro? La cosa che non sapevi prima e che hai capito adesso? La prima sorpresa è stata perché Bergoglio, che non aveva mai parlato di Padre Pio, a un certo momento decide che le spoglie debbano essere nella Basilica di San Pietro. E ho scoperto come in realtà, quando era arcivescovo di Buenos Aires, da testimonianze dirette che ho raccolto, chiamò i responsabili dei gruppi di preghiera di Padre Pio nella capitale argentina per farsi spiegare chi fosse Padre Pio. Scusa, attimo, mi danno una breaking news. Ha passato il casello adesso sulla corsia con il telepass. Era dotato di telepass, il feretro di Padre Pio. Non dicono adesso perché il professor Chiappini sta seguendo la diretta. Che casello era? Che vuol dire? Anche noi abbiamo questa. Forse sarà sicuramente lunghezza l'entrata da lì, penso che verranno. Prego, vai. Ma ecco, al di là insomma di quelle che sono le battute, anche se noi dobbiamo poi rispettare la devozione di tantissime persone, non solo in Italia ma in tutto il mondo, appunto perché in Argentina Bergoglio volle che questo si diffondesse, perché accanto alla figura sappiamo che sono sorti una miriade di gruppi di preghiera che fanno apostolato, carità, e si richiamano a questa figura, che che ne perpetrano in qualche modo il messaggio e la testimonianza. Ed è stato interessante scoprire questo, come i tanti punti di contatto che ci sono tra Bergoglio e Padre Pio. Ecco, questo celebrare la messa al mattino prestissimo, questo stare nel confessionale tante ore, e questo mettere al centro appunto il tema dell'amore e della misericordia di Dio. Insomma, tutti si possono salvare. Infatti, quando anche i più scettici si avvicinavano al confessionale di Padre Pio e sentivano che il frate raccontava loro, senza che si fossero mai conosciuti, i loro peccati, la loro storia, le loro difficoltà, ecco che poi questo produceva delle straordinarie confessioni. Cioè, come un veggente dei peccati, non bisognava manco... Sì, perché lui voleva caricare su di sé in qualche modo le, diciamo, anche le ferite e i peccati dell'umanità. Il Papa lo ha detto proprio in questi giorni: il vero religioso, quello autentico, è quello che è capace di sporcarsi le mani e di farsi carico, diciamo, delle ferite del mondo. Questo è il senso, al di là del santino che poi ne abbiamo fatto, ne è stato fatto di Padre Pio nel tempo, anche di tutti i miracoli che gli sono stati attribuiti, le guarigioni, ma al netto di tutto questo, Bergoglio è contro, diciamo, un eccessivo miracolismo, tant'è vero che pure su Medjugorje scettico. E come si tiene allora questo con Padre Pio? Brogio sta tentando il suicidio perché il Papa gli sta depotenziando quello che era il suo punto di maggiore attrazione verso l'assoluto. Però anche lì ha dato un bel freno su Medjugorje. Il Papa assolutamente sì. E allora perché invece chiama Padre Pio a San Pietro? Lo chiama, c'è un problema teologico, però su Medjugorje in effetti era un po' scappata di mano la cosa. E cominciava un po' a non essere più tanto in linea con quella che è la dottrina. Ma perché quello che poi conta per Bergoglio è appunto lo stile che aveva Padre Pio. Nonostante abbia subito 5 processi, gli abbiano messo le microspie nella cella, abbiano detto che se la faceva con le donne, con le devote, e che le stimmate se le procurava con l'acido, poi lui è rimasto sempre obbediente, non si è mai rivoltato. Intorno a lui c'era tanta gente che diceva: ma insomma, vai per la tua strada, ribellati al Vaticano, e lui disse: no, io rimango in questa linea di obbedienza. E poi ha avuto ragione, perché oggi è diventato un modello. Fosse stato un santo ribelle, oggi col piffero che sarebbe entrato a Roma nella gloria degli altari. Marco, buongiorno. Marco è caduto. Vito, buongiorno. Sì. Io trovo paradossale che il cittadino debba spendere 100.000 euro per una cosa come questa. Per carità, riconosco la spiritualità di certi fenomeni. In cosa li spende 100.000 euro? In cosa li spende? Tutto questo trasporto ho letto che costerà 100.000 euro pagati dalla Regione Puglia. Sì, infatti c'è stato nella regione Puglia col governatore Emiliano una grande discussione al Consiglio regionale se spenderli o meno questi soldi. Ma gliene torneranno, penso. Soldi. Per me è un bel investimento, secondo me. Cioè, è un brand regionale, è come i Bronzi di Riace per la Calabria, scusa, Padre Pio per la Puglia è fondamentale. Non lo so, non mi sembra un brutto investimento. Cinicamente, ti sembra un brutto investimento? Ma al di là dell'investimento, comunque, siccome poi risponde anche alla devozione, alla richiesta di migliaia o milioni di cittadini, insomma, si risponde anche a questo. E poi, senza dubbio, dal punto di vista turistico, se vediamo i 6.000 hotel che sono stati costruiti a San Giovanni Rotondo e via dicendo, anche questo ha... Aspetta, una testimonianza. Lucia, buongiorno. Lucia. Buongiorno. Sì. Senta, volevo solo precisare che Padre Pio era entrata nell'autocasello di San Severo. Ah, ecco, no, io non ho davanti. Lei l'ha visto? Lo sta seguendo? Sì, io sono stata lì, siamo ripartite perché poi... Ah, lei è al seguito di Padre Pio? Eh? È al seguito, diciamo, di Padre Pio? No, adesso siamo appena rientrati nel nostro paesello e comunque ho visto la salma entrare, abbiamo fatto la registrazione, quindi al momento... Si era appena avviato. Cosa eravate? Un gruppo di persone sono andate a aspettarlo al casello di San Severo? No, non era un gruppo, c'erano tanti fedeli, l'autostrada era bloccata, l'ingresso era... Ci racconti, faccia la cronaca, Lucia, cosa è successo a San Severo? Niente, noi siamo partiti, dico, io stamattina leggendo il giornale al bar a prendere un caffè ho letto che la salma di Padre Pio partiva alle 9:30 da San Giovanni Rotondo. E allora che mi sono sentita di dire a mio marito: andiamo a vedere quando passa da qua. Quando passa di qua, anche se noi l'abbiamo già visto anche lì a San Giovanni e tutto quanto. In quanti eravate? Quanti eravate al casello? Penso intorno ai 2.000 persone. 2.000 persone al casello? Sì, perché comunque sono arrivati anche se i bambini. Se lo sa Di Nolfi schiatta subito, perché in 10 minuti avete messo 2.000 persone, per fare 2 milioni comunque. Sì, anche perché poi ha fatto diverse soste da stamattina. Noi siamo e voi 2000 come vi siete sistemati intorno al casello? No, niente, comunque c'è una piazzola di sosta abbastanza grande da poter accogliere sia le macchine che le persone. E quando è passato avete fatto? Avete fermato un attimo? Perché è passato... No, è passato lentamente, in modo che noi stavamo avanti e quindi l'abbiamo potuto vedere. Passato con il telepass prima. Però naturalmente, la corsia sì, del telepass. Sì, adesso sì. No, ma comunque... Può pagare il entrato... pedaggio. Sì, sicuramente pagherà anche lui il sì, ma non è che può mettere dare i soldi in mano, passa più velocemente col telepass. Sì, questo sì, però comunque lui si è fermato all'interno del casetto autostradale, hanno fatto la benedizione, si è detto il rosario, adesso si è avviato. E poi voi adesso che avete fatto dopo? Finita? Noi abbiamo preso tranquillamente l'autostrada per Foggia e siamo rientrati a casa. È stata una bella mattinata. Sì, ne basta la pena perché l'emozione dal vivo prende sempre. Non mi chiedo se si è fermato al casello, no? No, l'autogrill. Nessun autogrill, proprio al casello autostradale. All'interno dell'autostradale del casello c'è un piazzale di sosta dove c'è il ricovero dei mezzi autostradali. Beh, questo è un evento, lo registriamo per primi, non sapevamo che al casello di San Severo 2000 persone sono... Neanche noi pensavamo di trovare tanta gente. Ma spontaneamente, non è che è stata una cosa organizzata. Ognuno è venuto... Nessuno organizzato. Ignazio, che ne dici questa cosa? Questa cosa ti dà la misura. Spontaneamente, una mattina, vedi al giornale, 2000 persone in... mezz'ora si radunano a un casello. È una notizia perché ti dà la misura effettivamente, diciamo, della devozione, anche della freschezza, dell'immediatezza della devozione di tanta gente per questa figura. Ecco, quando noi diciamo ormai c'è la secolarizzazione, la scristianizzazione e via dicendo, eppure rimane questa devozione profonda anche per un santo come Padre Pio. Io penso che questo ci debba, insomma, far interrogare e riflettere. 800 24 00 24, lasciamo un istante la linea, formazione della bozza, però io stesso sono sorpreso della piega sta prendendo questa trasmissione. Sono partito cinico, però mi rendo conto che è raro che chiami una persona che a tempo reale mi racconta quello che è un evento che ancora non era stato registrato. 2000 persone la mattina prendendo il caffè sono andate al casello per vedere passare Padre Pio. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Forte trauma cranico e lesioni gravissime. Giunta in ospedale, la ragazza fu subito messa in coma farmacologico, ma senza alcuna speranza di guarigione. Nella disperazione, i genitori pregarono Padre Pio. Dopo 48 ore la ferita alla testa si chiuse da sola. Ancora oggi i medici non riescono a spiegare scientificamente l'improvvisa guarigione. Fu un miracolo di Padre Pio. La parte superiore del teschio era scheletrita. In parte scheletrita, i tessuti ci sono tutti, il mento perfetto, il resto del corpo si è conservato bene, si vede benissimo il ginocchio, le mani, i mezzi guanti. Inutile che fate gli scandalizzati, il culto dei santi è fatto di questo, è fatto di analisi di cadaveri, il culto dei santi è fatto di questo, di popolazioni di fedeli che vanno a inzuppare dei pannicelli nel cadavere perché questo si porta la grazia dietro. È una cosa antica, una cosa molto legata alla carne. La carne non è assolutamente da demonizzare in questo caso. La carne è lo strumento, il veicolo attraverso cui si trasmette la santità. Padre Pio, naturalmente, come tutti i santi, fa i suoi miracoli. Non sarebbe santo se non fa miracoli. Maria Rosa, buongiorno. Buongiorno. Un grande saluto alla sua intelligenza. Vabbè, vada al punto, vada al punto. Al suo impegno sociale. Ma non c'ho nessun e impegno. Adesso vado. Vada. Prima dica quello che deve dire. Sì, certo. Ovvio, io ho 77 anni sì. E circa 3 anni fa ho avuto un crollo delle ossa, a quell'età capita, osteoporosi così, che però problemi di anemia, problemi di sì, vabbè, adesso non è Nicoletta Carbone, non sapevano se potevano operarmi o no, avevo il rischio di restare sulla carrozzella. E invece io poi ho il mio punto di fede, ma io non sono né praticante. Ma vada al punto, che è successo? Sì, mia figlia, 2 giorni prima, no, della data che mi hanno chiamato per entrare, si è sognata Padre Pio. Sì. E l'ha visto solo all'altezza del busto, così non ha parlato niente. Non diceva nulla. L'ha guardata e lei, mia figlia, che è molto fedele, è molto di fede, mi ha detto, ti chiameranno. Se no, sognava il mago Silvan, certo. Due giorni dopo mi hanno chiamato per operarmi. E quindi? E per me questa non è una coincidenza, è qualcosa di più. E quindi lei ha acquistato la fede? Insomma, sì, una ecco, buona parte sì. L'hanno salvata dal tracollo, deve, un attimo deve riflettere che non è che accade a caso. Va bene, grazie Maria Rosa, 800 24 00 24. Parliamo di Padre Pio. Ma la religiosità popolare è qualcosa di profondo, insomma. Ci può far sorridere qualcuno, però è una realtà, è un'espressione della fede. Ci sono tante espressioni della fede, c'è la teologia, c'è la ragione, ma c'è anche la religiosità popolare. Senti, nel tuo libro c'è un argomento molto interessante legato a Padre Pio. Devo dire, questo libro, ricordo Il segno di Padre Pio di Ignazio Ingra, uscito ieri, PM, da santo perseguitato a simbolo della Chiesa della Misericordia di Papa Francesco. È il diavolo, Vita di Padre Pio è l'elemento più forte della città popolare. Le edicole lungo le strade con l'inferno doveva dimostrare che lì si dava a finire. Papa Francesco è molto presente il diavolo. In entrambi, infatti, sia è un altro dei fili, dei misteriosi fili che legano queste due figure, Papa Francesco e Padre Pio, perché in entrambi, diciamo, la figura del diavolo è stata nelle due biografie una presenza viva, vera. Padre Pio lottava nella sua cella, così racconta e così raccontano anche i suoi confratelli, fisicamente, diciamo, con il diavolo che lo sbatteva, non lo faceva dormire, gli provocava anche delle ferite, delle lesioni. Proprio perché in qualche modo lui si faceva carico, attraverso le migliaia di confessioni che faceva, si faceva carico di questi peccati e quindi poi lottava contro il demonio per i suoi penitenti. E lo stesso Bergoglio ricorda costantemente la presenza del diavolo come una persona viva che poi cerca di strappare le anime a Dio, quindi non semplicemente un fatto ideale, intellettuale, il male così genericamente inteso, ma un angelo caduto che poi agisce nel mondo e si contende le anime con Cristo. Anche quello con gli zoccoli, col fuoco, cioè il diavolo vero nell'iconografia più classica, perché si è teso, diciamo, in alcune fasi della Chiesa, diciamo, a trasformarlo in un elemento simbolico. Ma se il male deve essere concretamente rappresentato, proprio se è l'antitesi della spiritualità, deve essere idealizzato in qualche maniera. Quindi, anche perché poi altrimenti anche la misericordia di Dio non avrebbe senso, l'amore non avrebbe senso, se, nel senso che poi significa poi coloro che si sono allontanati poi però hanno sempre una porta aperta per poter tornare, e quindi le due cose stanno insieme: parlare di diavolo e parlare di misericordia di Dio in qualche modo sono due elementi che si tengono l'uno con l'altro. Ecco, però non è sempre stato così. Un altro elemento interessante del tuo libro, che è una cronaca giornalistica molto attenta, è di quanto sia stato tartassato in certi anni Padre Pio, soprattutto padre Agostino Gemelli era il suo nemico numero uno. Il primo, ma poi ce ne sono stati anche tanti altri, Monsignor Maccari, che poi è diventato vescovo di Ancona. Insomma, non per alcuni anni, per gran parte della sua vita Padre Pio è stato tartassato. Cioè è stato un mobbing molto pesante. Sì, persino dal Papa Buono, da Giovanni XXIII, che davvero gli fece una guerra. Ma già da Papa o prima? Già anche da Papa, perché anche le ultime ancora, diciamo, ispezioni e relazioni negative sul conto di Padre Pio risalgono ancora agli anni del pontificato di Giovanni XXIII, ma erano cominciate molto molto prima, già al principio del secolo, quando appunto poi Padre Gemelli andò a incontrare Padre Pio nel convento e fece questa relazione dicendo che era un impostore, Padre Gemelli, sappiamo, era uno psichiatra, fondatore dell'Università Cattolica, uno scienziato, e via via il Sant'Uffizio ha preso una serie di provvedimenti contro Padre Pio: non poteva celebrare pubblicamente, non poteva confessare i fedeli. Questo... Ma cos'è? Spaventava, diciamo, il seguito popolare non controllato? Ma sono tanti elementi, diciamo. Secondo sì. Te che idea ti sei fatta? Ma c'era sì il fatto che lui in qualche modo era una figura incontrollata e incontrollabile rispetto all'attività delle gerarchie, ma poi si è inserito anche un elemento politico, ahimè. Erano gli anni del fascismo, della marcia su Roma, e allora vediamo il podestà di San Giovanni Rotondo che difende il frate, addirittura scrivono il prefetto detto a un certo momento, anni dopo, scrive a Mussolini per chiedere se è opportuno trasferire il frate dal convento o meno, e Mussolini dice no, lasciatelo dov'è, e quindi poi si contendono, ci sono anche elementi appunto politici su cui che si poi vanno su questa figura. Il mio inquilino clandestino Buttafuoco, adesso è uscito, che è sempre qui in trasmissione a fare le cose sue mentre noi andiamo in onda, prima di uscire ha fatto una notizia, ha detto camerata Padre Pio. E questo però, certo, è una battuta simpatica. Sì, però era simpatico, vuol dire che per la destra italiana era considerato un punto di riferimento. Esatto, mentre altri poi se lo dall'altra parte, da sinistra, invece lo attaccavano. Non è così. Cioè, poi Padre dice Pio che ha regalato stato il crocifisso che sta sulla tomba di Mussolini, l'ha regalato lui a Donna Rachele. Questo era un elemento. Però Padre Pio non è di proprietà di nessuno, in realtà, ma è di tutti, nel senso, poi non è né di destra né di sinistra, evidentemente, così come poi è stato circondato dall'affetto di tanti uomini dello spettacolo, VIP o uomini dello sport, pensiamo a Bartali, ma ancora Bartali e Coppi, che pure lì si contendevano, diciamo, poteva fare la grazia a tutte e due, chiaro. Ma anche Minoritano, Arbore, qua c'è un elenco: Totò, Carlo Campanini, Alberto Sordi, Sofia Loren, Mark Buongiorno, Pippo Baudo, Lollo Brigida, Macaro, Lucio Dalla, Lino Banfi, Oretta Berti, Lorenzo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. L'ha conosciuto? Sì, quando ero piccolo, che avevo anni, mi portarono i miei nonni lì a San Giovanni Rotondo. E che è successo? Sono passati 60 anni. Vedevo che la gente, ero piccolo, vedevo che la gente si accalcava per farsi confessare. Insomma, era uno che... Ma lei ci ha parlato, le ha detto qualcosa? Io ero piccolo. Ne l'ha visto soltanto? Sì, l'ho visto, ho ascoltato la sua messa nella chiesetta, perché prima non c'era neanche la chiesa. Cioè, al di là di tutto, voglio dire che lui, cioè, se era come l'hanno definito prima, che era uno così, ne hanno detto tante. Vabbè, ma l'hanno detto, ma è uscito indenne da tutte le accuse, quindi... Ecco, e io voglio dire, intanto, di quel che si sente, non voglio fare nomi, di questi prelati della Chiesa, sì, che voi sapete, quelli che sappiamo tutti, sì, i giorni, ecco. Lui invece ha lasciato quell'ospedale, una costruzione che... Vabbè, ha fatto del bene, è chiaro. Lorenzo, in bocca al lupo. Rosanna. Pronto? Rosanna, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, io sono Rosanna della Godorta. Volevo dire due parole solo. Io non è che avevo tanto, non è che non avevo fiducia a Padre Pio, però lo temevo perché era molto severo. Avevo sempre pensato che mi giudicasse, che mi castigasse. Ma l'ha visto lei? Ci ha mai parlato? No, però ogni tanto lo vedevo nel sogni, così. Però le appariva in sogno? In sogno, altrimenti anche nella nebbia, nella nebbiolina, vedevo Padre Pio. La nebbia qua, cioè per strada? No, vedete che sulle finestre, quando c'era magari un po' di vapore, no, io vedevo attraverso questa finestra, vedevo il volto di Padre Pio. Però non ho mai dato tanta importanza, per non essere troppo... Vabbè, comunque è successo questo, brevemente. Siccome che l'anno scorso, un anno fa, ho avuto il distacco della retina dell'occhio sinistro. Probabilmente era quello il problema, una cataratta che le dava delle visioni distorte, può essere, no? No, io ero già stato operato della cataratta. Vabbè, allora cosa è successo? Si è staccata la retina? La retina, e io non facevo caso, cioè, sono andata avanti una settimana con questo buio che a un certo punto continuava sempre ad avanzare. E niente, fatto sta che mi sono decisa di andare dal mio oculista privata. Quando sono andata, che mi ha accompagnato mia figlia, mi ha detto urgentemente operare. E quindi? Perché qui ci stava riempiendo l'occhio. Quindi è successo questo, che io nel giro di 3 giorni mi sono trovata nella clinica che c'è per andare a Novara. Sì. Però abbiate sintesi in questi miracoli. Alla fine che è successo? Perché sennò mi racconta tutta la vita. Niente, è successo che io la notte prima che mi operassero, ho visto Padre Pio in cima a un tetto, questa caseggiata che io non avevo mai visto. Era la clinica dove mi hanno operato. Quando poi sono uscita dalla sala operatoria, hanno detto: è stata fortunata, signora, forse miracolata. Associa lei il suo contatto emotivo così forte e spirituale con questa immagine, col fatto che l'hanno operata la cataratta e ha avuto un miracolo. Michele. Sì, buongiorno. Sì. senta, io andavo un po' fuori dal coro, diciamo, non è per dissacrare, ma no. C'è una storiella su Padre Pio che qui nella cerca di colleghi e degli amici gira, perché 3 anni fa 3 colleghi amici vanno a fare un giro in Puglia e vanno a lì dove c'è Padre Pio. E stanno lì un paio di giorni, ci riportano anche delle cose. C'erano dei voti, diciamo. Sì, santini, immagini, eccetera. Nel giro di un anno, sti tre uomini, tra l'altro erano mariti e moglie, sono morti tutti e tre. Allora, quando io sento. Succede, capita di morire, non è che. Sì, però, salva la vita andare adesso da Padre Pio. No, però è, diciamo, persone normali che lavoravano, eccetera, che. Fanno questo viaggio, tornano, che nel giro di un anno uno un ictus, uno correndo si è suicidato, eccetera. Quello si è aiutato da solo, non è un caso. Nella cerca di colleghi lo associamo col Padre Pio. Guardi, lei ha a che fare con una persona che naturalmente viene accusato di cinismo, già mi scrivono, non sto dissacrando, ma in questo caso non ci vedo, è la fatalità della vita, uno si è suicidato, probabilmente aveva già delle angosce che pensava di poter risolvere e non c'è riuscito, l'altro ha avuto l'ictus, l'altro è morto, ma non è che salva la vita in assoluto a fare un atto di fede. È chiaro che messa insieme diventa una facezza da amici di paese. Mandiamo il traffico velocemente, poi continuo con Ignazio Ingrao. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta Melog, cronache meridiane. .800240024, stiamo parlando con Ignazio Ingrao di Padre Pio, che sta arrivando a Roma, non so adesso le cronache dove lo danno, stanno seguendolo su Radio Padre Pio, che fa la telecronaca in diretta, come se fosse il Giro d'Italia, del camion con il lettino ammortizzato che sta portando Padre Pio a Roma. Ne sto parlando con Ignazio Ingrao, vaticanista di Panorama, che ha scritto un libro, Il segno di Padre Pio, che parla, edizioni PM, che parla proprio degli aspetti oggi meno noti della vita di Padre Pio, del suo fatto di essere stato per moltissimo tempo la sua vita, tempo principale la sua vita, perseguitato dalla Chiesa, e dei rapporti per cui oggi Papa Bergoglio mette Padre Pio al centro del Giubileo della Misericordia, che ho detto è stata una bella acchiappata. Vediamo adesso di riportarla in termini più legati alla norma. Ma diciamo che sicuramente penso che guadagnerà un bel numero di devoti Padre Pio in questi giorni, tra i tassisti romani, i venditori di panini nei camion bar e venditori di souvenir, perché certamente porterà finalmente un numero di gente, pellegrini. Sì, fino ad oggi, diciamo, il Giubileo non ha portato quei numeri che qualcuno trionfalisticamente pretendeva che fossero. E invece, insomma, sono già 50.000 quelli che sono registrati per la celebrazione che il Papa farà in piazza San Pietro. Ecco, che accadrà a Roma questi giorni? Ma dunque, e ci sarà anche qui una serie di tappe. Prima San Lorenzo fuori le mura, dove arriveranno Padre Pio e San Leopoldo Mandice, che è un'altra figura di un altro cappuccino, da dove confessore, viene quello? Da Padova. E che si incrociano, molto, diciamo, lì. Sono insieme perché il Papa li ha voluti entrambi. E poi c'è un'altra tappa, San Salvatore in Lauro, che è la chiesa, diciamo, dei gruppi di preghiera di Padre Pio qui a Roma, chiesa giubilare, che dista alcune centinaia di metri da San Pietro. E quindi poi ci sarà il 5, questa grande processione, come non se ne vede da tempo, che da San Salvatore in Lauro porterà la salma fino alla Basilica di San Pietro e poi sarà posta proprio accanto alla Porta Santa. E poi il grande celebrazione in piazza del Papa con i gruppi di preghiera di Padre Pio, e il 10, mercoledì delle ceneri, l'invio dei cosiddetti missionari della misericordia alla presenza di Padre Pio. Chi sono questi? È una figura che ha inventato Papa Francesco per questo giubileo. Saranno questi sacerdoti inviati in tutte le chiese di Roma per assolvere i penitenti anche dai peccati più gravi, quelli per i quali un tempo c'era la scomunica, come il peccato di aborto. Mi scrivono ascoltatori: illuminismo, dove sei? Signori, o diventiamo uno stato assolutistico, vietata la religione è fatta di questo. il vero illuminista è quello che comprende anche che esistano queste forme di culto, e se anche non le condivide interiormente, le guarda come fenomeno comunque antropologico interessante. Non è che non bisogna parlarne, non ci trovo nulla di strano. A me diverte anche parlarne, mi affascina, mi interessa, mi incuriosisce e mi aggiunge qualcosa. Ma soltanto prendere in giro, dire dov'è l'illuminismo? L'illuminismo è un termine astratto. Ma poi sappiamo che via via che si diciamo va avanti il razionalismo, la secolarizzazione del positivismo, poi ci si aggrappa però sempre di più anche a quelle che sono gli elementi della religiosità popolare. Questo mi dispiace, ma va detto, non so se Gianluca tu sei d'accordo, ma è la realtà. Ma io sono affascinato dalla religiosità popolare, mi interessa, non ci fosse quello sarebbe noiosissima la giornata, tutti razionali e tutti convinti. Poi sono per la sovrascrittura continua del proprio pensiero. Io posso cambiare idea fra 5 minuti, cancello, sovrascrivo il mio pensiero. Anna Maria. Sì, buongiorno. Sì. Va bene, sono io invece ho sempre avuto paura di Padre Pio da ragazzina. Proprio mi faceva paura quando lo... E le dirò una cosa, mia madre è molto credente, eccetera, io sono una agnostica. E quando è andata a fare visita a Padre Pio, gli ha portato un fazzoletto benedetto, non lo so. E quando me l'ha portato, io ho un marito immobile in un letto da moltissimi anni, non ho mai sentito profumi, cioè, non ho mai pregato per Padre Pio, però. Ma non mi sono mai sentita di togliere questo fazzoletto, ma non tanto per Padre Pio, per il ricordo di mia madre. Dove lo tiene il fazzoletto? Lo tengo sopra, tra il lenzuolo e il materasso dalla parte di mio marito. E suo marito è immobile a letto? Sì, mio marito ha una malattia immunologica, quindi... E quindi noi viviamo benissimo, anche senza Padre Pio, senza i miracoli... Però lei tiene sempre questa traversina benedetta sotto soffitto. No, non è una traversina, è un fazzoletto. Le dirò una cosa, più in ricordo di mia madre, che è morta recentemente. Ma ogni volta che cambia, diciamo, letto suo marito, rimette il fazzolettino. No, le dirò una cosa, io e mio marito ridiamo e dico proprio spassionatamente, alzati e cammina! Sì, ma lo lava mai questo fazzoletto, no? Non l'ho mai lavato. E da quanti anni sta lì? Da parecchi anni, guardi. Le dirò, non lo so, forse 20 anni. 20 anni? Diciamo, vabbè. Sì, diciamo, è un fazzoletto piegato, verde, oliva. È diventato verde, è diventato. Però, ecco, non voglio mancare di rispetto a nessuno. Perché io, cioè era bianco, è diventato veramente verde. Veramente questo, come si chiama, Santo Pio, non mi piace. Vabbè, non e mi piace. Un signora, Papa Bergoglio. Però, scusi, Anna Maria, è una contraddizione. Oh. Lei ha fatto sua una pratica di culto fondamentale con la reliquia. È un controsenso. No, vabbè, però no, questo è interessante. La reliquia in sé è una sorta di collettore di grazia. Proprio avevo stato a contatto con il santo, che il santo ha un corpo santo, attrezzato alla grazia, parte della grazia del santo la porta nella reliquia. Non mi faccia passare così, gliel'ho detto. Ma mica, non se ne vergogna, non c'è che... ricordo di mia madre, ma io ci... Sì, ma nessuno tiene un fazzoletto putrefatto per 20 anni sotto il materasso di una persona. No, non è putrefatto, è sempre fresco. Ha detto diventato verde, ha detto. No, è verde oliva. Ah, no, non è un fazzoletto bianco, è un bellissimo fazzoletto verde oliva. Vabbè, perfetto, grazie. Giuseppe, buongiorno. Giuseppe. Tondo. Giuseppe. Tondo. Sì, l'ascolto. Sì, buongiorno, sono Giuseppe. Sì. Andiamo dalla provincia di Catania. Sempre, io volevo... Sono un cristiano, ma non praticante della Chiesa. Sì. E io dico questo, che tutti i santi, sì, fanno miracoli, ma quel miracolo lo fa solo Dio. Adesso quando ha detto questo... Secondo il mio punto di vista sono un contorno. Va bene, fa piacere che abbia questa convinzione. Ignazio Ingrao, vediamo un po' di concludere. Hai visto però, è questo e anche questo. La signora non credente, però si tiene da 20 anni il fazzoletto vicino al marito malato. Appunto, e questo come tanti che erano scettici, lo racconto nel libro, tante storie, e che però scendevano comunque a San Giovanni Rotondo, incuriositi, spinti da tante ragioni, e poi magari alcuni trovavano la conversione, altri no, e anche oggi è così. Magari ma c'è chi va oggi a San Giovanni Rotondo, magari viene invece respinto dal vedere la miriade di alberghi, negozi di souvenir, cioè da quella Las Vegas dello spirito che poi spesso gira intorno ai santuari, oppure la magnificenza forse eccessiva anche del santuario superiore, quello di Renzo Piano, e tanti invece preferiscono la piccola chiesetta di Santa Maria delle Grazie, dove Padre Pio celebrava e dove poi è stata conservata conservata, diciamo, la sua salma. Ma questo accade sempre, anche Assisi è un parco a tema, se la vedi così. Io che sono umbro te lo posso dire, capito? Vendono anche i frati, quelli che li pigi sulla testa e succede l'innominabile. Ma questo non dice nulla, la grazia scorre ovunque comunque. Assolutamente sì, però appunto dipende dagli occhi che noi abbiamo, quindi c'è chi rimane, diciamo, su quella dimensione, chi invece va più a fondo e quindi coglie anche appunto quello che è il messaggio anche spirituale e di fede che questo frate promana, al di là degli odori e dei, allora, e dei grazie profumi. Ignazio Ingao, ricordo Il segno di Padre Pio, finché siete in tempo compratevelo, perché è un libro che dice cose che finora nessuno aveva mai detto su Padre Pio. Sembra difficile, ma in realtà è proprio così. A tra poco, cioè a domani, che tra poco.